Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. minuti in questo esatto istante. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori con l'appuntamento con la grande attualità internazionale. Mire Lucchetti e Nadia Zammitti sono in redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi con commenti, suggerimenti e critiche e domande: 349-238-6666, gli sms cinguettate su Twitter nell'indirizzo nessunluogo24 oppure Giampaz, e infine su Facebook mi trovate a nessunluogolontano-radio24. Puntata molto ricca quella di oggi, tanti temi che affronteremo. La prima storia che vi racconto parte dal Brasile, parte da una campagna elettorale che per un tragico incidente aereo perde uno dei suoi protagonisti. Brazilian President Dilma Rousseff has declared 3 days official mourning after opposition presidential candidate Eduardo Campos died in a plane crash on Wednesday. Uma morte que tirou a vida de um jovem. A death. Você tem notícias de vítimas, né, ou de pessoas que estavam passando por ali e que acabaram te contando também como é que foi esse acidente e quantas vítimas e quem seriam essas vítimas? Porque na verdade e como avete sentito, 3 giorni di lutto nazionale sono stati dichiarati. Eduardo Campos è morto, 49 anni, è morto in questo incidente aereo, il piccolo Cessna su cui era a bordo è precipitato a Santos in fase di atterraggio a causa evidentemente del maltempo. Perché vi racconto questa storia? Perché vi porto in Brasile? Beh, perché chiusi e spenti i riflettori sull'appuntamento sportivo principe, sui campionati mondiali di calcio, che sono stati debitamente raccontati, è stato raccontato anche il Brasile prima dei mondiali. L'altro appuntamento è quello del 5 ottobre, quando si eleggerà il nuovo presidente. Campos era, in verità, nei sondaggi non era esattamente probabile vincitore, però era un giovane che poteva sicuramente, insomma, dire la sua e scompigliare le carte agli altri candidati. Do il mio ben ritrovato a Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Paolo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, due fondamentalmente i temi: primo, che cosa cambia nella campagna elettorale; secondo, che cosa hanno lasciato i mondiali di calcio. Prima di chiederti lumi su questi due punti, Paolo, ascoltiamo insieme chi sono i candidati a quelle presidenziali del 5 ottobre. Ottobre, il Brasile è chiamato alle urne per le elezioni generali. Si voterà per eleggere presidente, vicepresidente, governatori, un terzo dei senatori, deputati federali e deputati degli stati. Dilma Rousseff, attuale presidente del Brasile, si ricandiderà per un altro mandato. Figlia di un imprenditore bulgaro, cresciuta a Belo Horizonte in una famiglia agiata, dopo il colpo di stato militare del 1964 aderì a gruppi di estrema sinistra. Tra i fondatori del Partito dei Lavoratori, nel 2002 divenne ministro dell'Energia nel governo di Luiz Inácio Lula da Silva. Tra gli avversari più temibili di Dilma Rousseff vi sono Aécio Neves da Cunha, candidato del Partito della Socialdemocrazia Brasiliana, ex governatore di Minas Gerais, presidente della Camera e nipote di Tancredo Neves, eletto presidente del Brasile nel 1985. E Randolph Frederick Rodrigues Alves, 42 anni, del partito Socialismo e Liberdade, il senatore più giovane della storia del paese, che rappresenta l'opposizione al lulismo. Avversario elettorale tra i più quotati era il governatore di Pernambuco, Eduardo Henrique Assioli Campos, del Partito Socialista Brasiliano, ex ministro della Scienza e Tecnologia di Lula, deceduto in un incidente aereo. Candidato in coppia con Marina Silva, la politica ambientalista, ex ministro dell'Ambiente del governo Lula, avrebbe rappresentato un'alternativa valida soprattutto per le aree più urbanizzate del sud e sud-est del Brasile, dove l'agenda politica sui temi ambientali della Silva ha un crescente seguito. Il gradimento del presidente Rousseff, che al momento dell'insediamento godeva dell'80% del consenso popolare, è recentemente precipitato al 37%, segnando probabilmente il momento più difficile del suo governo. Nell'ultimo periodo la crescita in Brasile si è frenata, il potere d'acquisto dei salari si è quasi dimezzato, l'inflazione ha superato per la prima volta il limite programmato dal governo del 6,5%, rivelando ancora un elevato livello di povertà diffusa. Notevoli progressi sono stati compiuti nell'uso sostenibile delle risorse naturali, le emissioni di carbonio sono diminuite e la deforestazione è stata rallentata. Alcune politiche per distribuire i benefici della crescita economica hanno avuto degli effetti nel ridurre la diseguaglianza di reddito, ma guardare le proteste degli ultimi due anni sembra che proprio questo sviluppo faccia da megafono per la nuova classe media emergente in Brasile, che rivendica sempre più diritti sociali. E fra l'altro ve le ricordate, gentili ascoltatrici e ascoltatori, quelle proteste proprio prima e durante i mondiali di calcio? Che campagna elettorale diventa questa? Quanto la politica brasiliana perde con la scomparsa di Campos? Paolo Magri. E non perde, come avete detto, un candidato che aveva chance di vincere questa volta, perché era attorno al 10%, anche se nel sistema elettorale brasiliano i candidati regionali come Campos diventano noti e quindi votabili solo negli ultimi due mesi quando vanno nelle televisioni nazionali. Però era una sorta di golden boy della politica brasiliana, giovane, governatore di uno stato che era molto povero ma che è cresciuto molto in questi anni, diventato il primo, il più amato governatore del Brasile nel sondaggio che viene fatto ogni anno, rappresentava un'alternativa a Dilma Rousseff e al PT. In che senso? Nel senso che era un candidato di una sinistra, come è il partito di Dilma, di cui lui era alleato peraltro fino a poco tempo fa, di una sinistra attenta al mercato. Attenta al mercato, mentre a Dilma Rousseff viene attribuito una deriva protezionistica, nazionalistica, molto punitiva, più punitiva nei confronti delle imprese. L'alleanza insolita che lui ha fatto, Campos, un anno fa, con Marina da Silva, che ricordiamo era stata candidata alle ultime elezioni, aveva ottenuto il 20%, anche lei alleata di Lula, un'ambientalista nata nell'Amazzonia, raccoglieva il caucciù, la gomma di caucciù. Ecco, questa alleanza molto insolita dava a questo partito una doppia fisionomia, attrattivo per il mondo delle imprese, perché appunto è una sinistra aperta al mondo delle imprese, ma anche attenta ai temi ambientali e ai giovani. Sì. Cosa succede ora? Se Marina da Silva diventerà il candidato, ricordiamo che Marina da Silva non venne candidata perché non raccolse le firme necessarie, ci fu un problema burocratico, sì. E dovette allearsi per entrare in campagna. Se lei diventasse la candidata, al primo turno per Dilma diventa più difficile, perché ha di fronte una candidata che aveva preso il 20% nelle altre elezioni e un Neves che ha un 20% o ad oggi di preferenze, quindi molto difficile vincere al primo turno. Ma al secondo turno c'è un punto di domanda molto grande, perché i votanti, gli elettori di Marina da Silva voteranno al secondo turno contro Dilma e quindi a favore di Aécio Neves, il candidato della destra, un rappresentante della vecchia politica? È molto difficile pensarlo, quindi paradossalmente potrebbe andar meglio per Dilma Rousseff, perché non ha di fronte un candidato molto apprezzato anche dei ceti imprenditoriali, ma un candidato più polarizzato che al secondo turno tendenzialmente non dovrebbe sostenere un candidato della destra. Chiarissimo. Fra l'altro, e mi si perdonerà il cinismo, il fatto che si andrà a votare ad ottobre e la tragica scomparsa di Campos è avvenuta ieri, probabilmente non vi sarà nemmeno l'effetto emotivo, no? Che a volte in queste situazioni può accadere. Ci sarà all'inizio, come giustamente sottolinei, ma teniamo conto che il Partito Socialista Brasileiro è un partito piccolo, non è uno dei grandi partiti del Brasile, è in ascesa grazie a Campos, quindi non c'è un stringersi a corte attorno a un partito storico, c'era un partito che poteva crescere grazie a Campos e che ora probabilmente non crescerà perché Campos non c'è più. Chiarissimo. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, con te volevo affrontare un altro punto che ho appena accennato a inizio trasmissione. L'appuntamento dei mondiali, così come quello delle Olimpiadi, sono molto spesso per i paesi che li ospitano occasioni di grandi investimenti. Altrettanto spesso le ricadute generali sulla ricchezza del paese e sul PIL non sono esattamente positive. Siamo andati a rispulciare, in realtà grazie a un articolo uscito qualche tempo fa su panorama.it che citava un rapporto pubblicato da Euler Hermes, che è una società del gruppo Allianz, che ha analizzato appunto l'impatto economico dei mondiali sui principali indicatori del paese. e analizzava partendo dalle spese per le infrastrutture. Nel periodo 2009-2014 sono stati spesi 26 miliardi di reais, cioè 8,6 miliardi di euro, pari allo 0,5% del PIL. Secondo le stime di questa società di analisi, l'impatto di queste grandi opere è stato molto molto modesto e si è tradotto in incrementi del PIL in incrementi del PIL tra lo 0,1 e lo 0,5%, quindi meno delle Olimpiadi londinesi di 2 anni fa e dei Mondiali di Sudafrica del 2010. In buona sostanza possiamo sintetizzare dicendo spenti i riflettori sui mondiali, però spenta anche l'economia brasiliana, o estremizzo troppo? Un po' sì, forse nel senso che innanzitutto stiamo parlando della quinta potenza mondiale in questo momento, quinta, sesta secondo delle stime, che ha qualche rallentamento adesso, ma è comunque una potenza economica superiore all'Italia in questo momento, che ha ridotto la crescita, è passata dal 6-7 degli anni passati all'1% di quest'anno, meno di Gran Bretagna e Stati Uniti per intenderci. Ma i mondiali, i grandi appuntamenti sportivi in genere non danno crescita economica significativa, addirittura nel caso la Grecia ha portato al tracollo il paese, come ricordiamo, ma sono un'operazione di immagine molto importante, in quel senso sono importanti, danno prestigio internazionale, danno morale, goodwill, buona opinione interna. Cosa è successo ai mondiali brasiliani? Che c'è stato il rischio delle proteste, il rischio dei ritardi e poi ovviamente l'incertezza del risultato, che hanno guastato la festa, le proteste che poi non ci sono state come si temeva, i ritardi che non ci sono stati come si temeva, il funzionamento delle opere dei mondiali è stato più che dignitoso alla fine, salvo le opere di trasporto, ma che non erano necessariamente collegate ai mondiali, ma c'è stato invece il grande tracollo del risultato sportivo. Sì. Ecco, tutto ciò cosa è successo? Le proteste e i ritardi, la polemica su questi due temi è stata molto alimentata dall'opposizione a Dilma Rousseff, che ha visto un'occasione ghiottissima per scalzare a 3 mesi dall'elezione la presidentessa, e però ha tracimato, è andata in giro per il mondo e quindi c'è stata un'immagine globale che non è stata all'altezza di quello che è stata in realtà l'organizzazione brasiliana, che è stata, ripeto, più che decente. E invece c'è stato sul fronte interno il peso dell'angoscia collettiva del risultato, dell'umiliazione del 7-1. Quindi l'operazione di immagine dei mondiali ha funzionato molto meno di quello che poteva essere. Dovevano essere il trionfo di un paese diventato quinta potenza mondiale, che ha portato 15 milioni di persone fuori dalla povertà, che è entrato nei BRIC, che ha un peso internazionale che non ha mai avuto in passato, si è tradotto in un'operazione che economicamente, come dicevi, non ha dato grandi risultati e politicamente, in termini di prestigio, è stato rovinato da queste polemiche che ci sono state e per dei ritardi che sono stati meno gravi di quelli che sono appariti all'esterno. È vero però, Paolo, che le proteste, è vero, insomma, non ci sono state proteste forse quelle che si aspettavano, ma anche perché l'amministrazione ha reagito col pugno pesante, insomma, sono stati schierati forze di sicurezza, sì. Non è stato dato possibilità proprio, no? Ci sono due tipi di proteste, come quando parliamo di Siria, di Egitto, di questi altri mondi lontani. Sì. Sono state le proteste dei primi giorni, che erano di un anno fa, di indignazione perché non si faceva per scuole, ospedali, trasporti quello che si stava facendo con i mondiali. A quelle proteste è stata una prima risposta di Dilma Rousseff, portando medici, promettendo investimenti, e qualcosa si è fermato. Poi le proteste che abbiamo visto nei giorni dei mondiali erano ben diverse, erano i violenti, erano i sindacati che approfittavano del momento di debolezza del governo per chiedere aumenti salariali del 20-25%, l'hanno fatto i poliziotti, l'ha fatto la Polizia Federale, l'hanno fatto gli albergatori, quindi erano proteste molto diverse, perché le persone che hanno protestato all'inizio, questa massa indistinta che protestava per cose concrete, i trasporti eccetera, si è fatta prendere dall'orgoglio nazionale del paese. Il Brasile è un paese molto orgoglioso, molto sì, nazionalista, non solo legato al calcio, legato al prestigio del Brasile. Ricordiamo le immagini durante le partite dell'inno nazionale cantato collettivamente da centinaia di migliaia di persone. Ecco, queste persone della prima ora si sono fermate quando hanno capito che la loro protesta veniva utilizzata anche da altri, e le proteste che abbiamo visto a ridosso del mondiale erano più limitate, non erano le centinaia di migliaia migliaia di persone nelle varie città, erano le categorie, solo che mediaticamente in quei giorni, io ero in Brasile in parte di quel periodo, sì, mediaticamente per quanto riguarda la stampa e i media internazionali, siccome c'era attesa di protesta, ogni protesta anche di 150 persone davanti a un albergo di, sì, una squadra nazionale diventava mediaticamente significativa. Chiarissimo. Questo è il punto che c'è stato. Sì. Quindi questo non vuol dire che il Brasile non è più un paese diseguale e che non ha problemi, ma vuol dire che dobbiamo anche ricordarci che uno dei due paesi grandi al mondo, insieme alla Turchia, che ha ridotto la disuguaglianza negli ultimi 10 anni. Sì, ed è questa sicuramente, insomma, è una delle sfide che attenderà il prossimo presidente. Dovremmo aspettare i primi d'ottobre per capire chi si assumerà queste nuove responsabilità. Grazie mille a Paolo Magri, direttore dell'Istituto per gli Studi per la Politica Internazionale da Milano. Buona serata, grazie mille Paolo, a presto. (349) 238-6666 per commentare i tanti temi di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Twitter Giampaz, Nessun Luogo 24, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Archiviata questa prima pagina tutta dedicata al Brasile che verrà e alla campagna elettorale brasiliana che verrà da qui a ottobre, torno sul tema immigrazione. Non vi parlo di Lampedusa, non vi parlo di Calais, nemmeno della rotta balcanica, vi porto a Ceuta e Melilla. Más de un millar de personas han sido rescatados en aguas del estrecho, una cifra sin precedente. En Tarifa, los servicios de salvamento marítimo y de la Guardia Civil están en alerta. Se espera que la llegada de inmigrantes continúe también en las próximas horas. Son los últimos rescatados. Han llegado esta misma tarde al puerto de Tarifa. Perché l'ultima settimana, la settimana che si chiude quest'oggi, ha visto un nuovo assalto, tra virgolette, di migranti. Da un lato alle città autonome di Ceuta e Melilla, che sono città autonome in territorio marocchino, e dall'altro alla costa meridionale della Spagna, appunto in particolare a Tarifa. Oggi la prima pagina del New York Times mostra immigrati africani sbarcati a Tarifa, appunto nel sud. Pensate, 920 persone sono state tratte a bordo dagli spagnoli. Era una flotta di circa 80 gommoni che stava tentando di attraversare appunto lo stretto di Gibilterra. Ci aiuta a capire meglio che cosa è accaduto Jorge Mari Rodriga, che è caporedattore dell'edizione internazionale di El País. Jorge, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Come state? Buonasera a tutti. Benissimo, grazie Jorge. Allora, una specie di sbarco in Normandia, sì. Chi era lì ha trovato una flotta di gommoni che dalla costa marocchina partivano verso quella spagnola. Deve essere stata una scena incredibile. È stata una scena senza precedenti, proprio come un film. Diciamo che dalla costa spagnola a quella marocchina ci sono soltanto 15 chilometri, quindi dalla Spagna si vede perfettamente la costa del Marocco, e a un certo punto il mare calmo, il cielo splendente, una giornata bellissima, c'erano decine di gommoni piene di persone cercando di attraversare lo stretto di Gibilterra. A un certo punto la Guardia Costiera spagnola, il suo scopo non è stato più quello di respingere l'imbarcazione, ma quello di cercare di riscattare tutti quanti e quelle imbarcazioni che si trovano in problemi. Pensiamo che questi gommoni sono fatti per 15 persone, 20 al massimo, e viaggiavano circa 80 persone in ognuno. E questo, insomma, per dare, come dire, per tratteggiare quella che era sicuramente una situazione disperata e che poteva volgere certamente in tragedia. Non soltanto questi quasi 1000 migranti che sono arrivati sulla costa sud della Spagna, martedì scorso altri 6-700, le stime oscillano, avevano circondato le reti e si erano in parte arrampicati le reti di protezione di Melilla. Dovete pensare, sono reti alti circa 6 metri con sistemi di telecamere. Le due enclave spagnole in territorio marocchino ormai dal 2005 si difendono sempre di più, erigendo muri sempre più alti, perché sono dei pezzettini d'Europa, no? Incastonati in territorio africano, e per molti migranti sono in qualche modo il primo, anzi l'ultimo passo, sono l'obiettivo. Jorge. Sì, queste due città sono delle città spagnole che sono nel territorio africano. Il Marocco dice la seconda, la teoria del Marocco sono città marocchine, ma il fatto è che dal 500 sono città spagnole e tecnicamente sono territorio dell'Unione Europea, quindi tantissimi migranti africani prendono, diciamo, le strada che va dalla Guinea, Nigeria, Mali, Mauritania, Marocco, cercano di entrare in Spagna, di arrivare a queste due città. Le autorità spagnole, quelle che hanno fatto, è stato costruire queste rete, che sono rete metalliche alte 8 metri, cercando di frenare, di fermare questa valanga di persone. Il fatto è che quello che fanno i migranti è aggruppare centinaia di persone, e ogni tanto cercano di assaltare in gruppo nella speranza di che almeno qualche prima lograrà varcare la frontiera. Ieri, per esempio, c'è stato un ragazzo che ha arroccato all'alto di questo ostacolo metallico 16 ore. Finalmente le autorità spagnole le hanno convinto di scendere non dal lato spagnolo, ma dal lato di Marocco. E in qualche modo ha fallito il suo progetto migratorio, ovviamente, tornando indietro. Jorge, c'è al 349-238-6666 un ascoltatore, Ennio da Bergamo, che chiede se è vero che la Guardia Civile spara ai migranti in queste situazioni o dice è una leggenda metropolitana. Io ricordo quell'episodio gravissimo nel 2005, se non erro, in cui sia la Guardia Civile che la polizia marocchina sparò sui migranti, vi furono morti e feriti. Ti risultano casi di cronaca recenti in cui la Guardia Civile abbia sparato? No, è stato soltanto una volta nella quale la Guardia Civile ha sparato, non ha sparato delle pallottole, ma come si dice, queste palle di gomma, contro decine di persone che cercavano di entrare in Ceuta a nuoto. Attraverso l'acqua, a nuoto. Sì. È stata una grandissima polemica, c'è anche un'inchiesta nel Parlamento, perché si vedeva chiaramente nelle immagini come si sparavano su qualche immigrante che stavano nuotando. È stata una grandissima polemica. Quella è stata l'unica volta nel quale, diciamo, c'è stato suono delle armi di fuoco. Invece, diciamo, l'operativo normale è che quando queste valanghe di persone iniziano, siccome delle telecamere possono vedere questa situazione, arriva la Guardia Civile, ma pure arrivano le organizzazioni non governamentali, la Croce Rossa, quindi è molto difficile, diciamo, che questa situazione sia fuori controllo, nel senso che si spara su ognuno che cerca di varcare la frontiera. È stato, ripeto, una volta, e c'è stata una polemica e un'inchiesta parlamentare. Sì. Jorge, Ceuta e Melilla in realtà sono sì una delle porte d'accesso d'Europa e per la Spagna, ma in realtà la percentuale di migranti che riesce a passare da quella parte è veramente infinitesimale rispetto ad altre vie. Voi in Spagna l'emergenza immigrazione è un lontano ricordo, perché i numeri degli ingressi sono molto molto inferiori a quelli, ad esempio, che subisce l'Italia. Sì, certamente è una situazione che non ha niente da vedere, per esempio, con quello che capita in Italia a Lampedusa. C'è emergenza nel senso umanitaria nel Ceuta e Melilla, che loro, queste due città, hanno dei centri di accoglienza per questi migranti. Ogni centro ha capacità di 400 persone, in questo momento ci saranno 1.600 persone, ma il punto più importante di ingresso per l'immigrazione illegale in Spagna non è quello, ma è l'aeroporto di Barajas. In Spagna la grande maggioranza dei migranti che arrivano o che arrivavano prima della crisi venivano di Sud America, di Latino America, quindi non è un grandissimo numero. Per esempio, questo numero di 1.000 persone che hanno cercato di entrare in 3 giorni, 1.000 persone quello che cercano di entrare una sola volta in Italia. Non è un'emergenza nel senso che siano i grandissimi numeri un'emergenza, nel senso che ogni persona ha dei sospetti e certamente ti trovi delle casi drammatici di persone che hanno fatto a piede il lunghissimo viaggio, certo, dall'Africa all'Europa e all'ultimo momento, nell'ultimo metro vedono che non possono entrare. Certo. Jorge, stai con noi perché adesso ci sono altri numeri che sono quelli della borsa finanziaria, poi di nuovo con te a parlare di immigrazione. Nessun luogo è lontano. Minuti, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, ben ritrovati. Nessun luogo è lontano. Siamo con Jorge Mario Rodriga, che è caporedattore dell'edizione internazionale del Paese, per raccontarvi un'altra Lampedusa, una delle tante alle porte d'Europa, un'altra rotta dell'immigrazione, quella che passa dalla Spagna, che fa numeri decisamente inferiori rispetto a quelli italiani. Ieri dicevamo si sta raggiungendo quasi quota 100.000 ingressi da sud, perché si parla solo del sud Italia, mentre, come vi raccontavo, la rotta balcanica, lì gli ingressi irregolari, si possono fare solo delle stime, si parla di dai 10 ai 30 ingressi regolari al giorno, ma transitano per l'Italia e vanno verso il nord Europa. Mentre i numeri spagnoli dicono 6.000 ingressi irregolari circa l'anno scorso. Però poi, Jorge, Mario Rodriga, c'è un altro fenomeno molto interessante che è quello dettato dalla crisi economica. Anche la Spagna non se la passa bene, allora tanti immigrati ritornano nei paesi d'origine. Più o meno quanti da quando è scoppiata l'ultima crisi economica? È molto difficile fare un calcolo preciso, perché diciamo che in questa cifra vanno quegli immigrati che avevano tutti i documenti in regola e quelli che no, ma più o meno da quando la crisi economica è scoppiata nel 2007 si calcola che 2 milioni di immigranti sono ritornati ai suoi paesi d'origine. Pensa che per i migranti della Latinoamerica, anche quelli che arrivavano senza documenti, diciamo la regolarizzazione era abbastanza facile. Se rimani 3 anni subito hai il diritto alla residenza legale, forse prima, quindi tanti avevano portato le sue famiglie della piramide di diversi paesi, Ecuador, Bolivia, Brasile. Sì. E avevano comprato delle case, avevano comprato delle macchine, e quando è arrivata la crisi economica sono rimasti senza lavoro, queste persone hanno trovato che non potevano pagare i debiti e quelli hanno deciso di tornare nei suoi paesi dove avevano più opportunità in quel momento che se rimanevano in Spagna senza lavoro e con 6 milioni di persone disoccupate. Quindi, secondo le statistiche ufficiali spagnole, il numero di migranti ha acceso in maniera drammatica in Spagna. Questo è anche un problema, perché diciamo che queste persone venivano perché in quel momento aveva lavoro e ci sono dei lavori che facevano loro, soprattutto nell'agricoltura e nei servizi nelle città. Invece adesso non c'è più. Il fatto è che si spera che se c'è una recuperazione economica il flusso tornerà, si svolta nel flusso di migranti e torneranno ad arrivare. C'è una politica di Stato spagnola, diciamo non mai dichiarata, che è quella che preferisce l'immigrazione della Latinoamerica a quella dell'Africa. Perché? Sì. Per una questione culturale, non soltanto di lingua ma anche di cultura. Certamente l'adattazione e la naturalizzazione di questi migranti è molto facile. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie mille, Jorge Mario Rodriga, lo ricordo, è caporedattore dell'edizione internazionale del Paese. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a voi, buona giornata. Interessante anche quest'ultimo punto che sottolineava il caporedattore del Paese, e diceva anche questa chiusura rispetto all'immigrazione che viene dall'Africa è giustificabile, spiegabile anche da una elezione, un'affinità elettiva che c'è ovviamente con quelle che sono le ex colonie dell'America Latina E fra l'altro dobbiamo ricordare che forse la via di ingresso principale per l'immigrazione irregolare in Spagna sono gli aeroporti, e molto spesso vengono utilizzati anche aeroporti italiani per fare una tappa, entrare già a Schengen, poi prendere un volo interno europeo e poter arrivare così a Madrid o a Barcellona. Mentre di tutt'altro tenore sono alcune delle analisi che vedo qui sul monitor al 349-238-6666. C'è chi dice che sono un comunista, anzi da bravo comunista preferisco occuparmi di clandestini, sono mediocre e sono fazioso. Non sono comunista, in ogni caso il mio orientamento politico non è assolutamente rilevante quando si raccontano fatti, io sto raccontando dei fatti, non mi sto occupando di clandestini, mi sto occupando di migranti. C'è stato un fortissimo richiamo sull'utilizzo giornalistico dei termini, gentile ascoltatore. Molto spesso si tratta di potenziali richiedenti asilo, e i richiedenti asilo non sono clandestini. La maggior parte di quelli, ad esempio, che arrivano a Lampedusa sono somali, eritrei e sono siriani, quindi sono potenziali richiedenti asilo, i clandestini sono un'altra cosa. Sulla mediocrità lascio chiaramente giudicare a voi ascoltatori, sulla faziosità non la vedo. E poi c'è chi dice che bisogna aiutarli nel loro paese, nelle loro società diverse dalla nostra. Questa sì è una litania che viene spesso pronunciata da tante parti politiche, poi la realtà è che è veramente molto difficile aiutarli nel loro paese, soprattutto se si pensa a situazioni come quelle che ho citato, la Somalia che è in guerra da oltre 20 anni, l'Eritrea che è un regime autoritario con cui è molto difficile dialogare, la Siria, e lì ci si chiede dov'è che li aiutiamo, li aiutiamo a Homs, li aiutiamo ad Aleppo, è molto difficile aiutarli nel loro paese. E poi c'è chi si fa prendere dal terrore e dice: avete visto lo sbarco in massa in Europa, ci uccideranno tutti come fanno in Nigeria, sono dei cani sciolti terroristi tagliagole. Vabbè, insomma. E poi c'è chi dice: perché non ti occupi del massacro dei cristiani in Iraq? Come mai? Veramente abbiamo fatto 3 puntate sulla crisi Iraq e Kurdistan, ma sicuramente ci torneremo ancora sopra, perché la crisi è tutt'altro che risolta. Un'altra crisi che è stata offuscata da quelle più mediaticamente raccontate e anche forse più urgenti dal punto di vista umanitario, quella irachena da un lato e quella di Gaza dall'altra, è stata la crisi ucraina. Parliamo di Ucraina perché c'è quasi un giallo, insomma, questo convoglio che è partito da Mosca, 200 passa camion bianchi, forse avete visto qualche immagine, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore, nei prossimi giorni appunto in Ucraina, e a leggere la stampa si legge di possibile cavallo di Troia, si legge ovviamente di perplessità da parte dell'Ucraina dicendo assolutamente questi non possono entrare, li dobbiamo controllare al confine, insomma. Questi 280 camion bianchi in realtà sono tinti di giallo, e vedremo se nei prossimi giorni queste tinte svaniranno e la verità verrà a galla. Per capire meglio come viene percepito lì sul terreno l'arrivo di questo convoglio, ci colleghiamo con Danilo Elia, che è corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso. Danilo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, bentrovati a voi. Allora, Danilo Elia scrive appunto per Osservatorio Balcani e Caucaso, è nella zona di Donetsk, ma non a Donetsk. Ricordaci dove sei, Danilo. Sì, sono nella regione di Dnipropetrovsk, che è un po', diciamo, la retrovia dal punto di vista dell'offensiva governativa, la retrovia delle operazioni militari. Come viene accolta, come viene percepita la notizia di questo convoglio, di questa 280 cavalli di Troia pronti a arrivare in Ucraina? Com'è il sentore lì? Ma qui dalla parte ucraina questa cosa è vista con, come dire, con un misto di scetticismo e anche di amara ironia. Da un lato c'è proprio una tangibile mancanza, come dire, di fiducia nei confronti di un convoglio umanitario mandato dalla Russia, e dall'altro lato c'è anche un senso di frustrazione, perché si dice ma come la Russia che di fatto non impedisce, se non addirittura favorisce questo conflitto in territorio ucraino, adesso manda aiuti umanitari. La paura vera è che si possa nascondere, appunto chiamandolo convoglio di Troia, questo cavallo di Troia, si possa nascondere in questi 280 tir qualcosa che non ha a che fare con l'aiuto umanitario, aiuti di armi per esempio. E questa è un po', insomma, la grande paura che viene agitata. In realtà nel frattempo, benché i giornali dedicano molto molto poco spazio, ovviamente, perché come dire, l'economia dell'informazione è quella, più di tanto più di tante crisi non si riescono a seguire contemporaneamente, questo è un agosto ai noi caldissimo. 74 i civili uccisi in 3 giorni nella zona di Donetsk, in realtà si continua a sparare, si continua a combattere, la crisi sembra molto lontana da una possibile risoluzione. E un altro segnale preoccupante, Danilo Elia, me lo confidavi prima in un fuori onda, un ammassamento di truppe nella zona del sud-est al confine con la Russia. Sì, ci sono movimenti di truppe, in realtà si registrano da tanto tempo in territorio russo, nei pressi del confine con l'Ucraina, nelle regioni, nella regione orientale, sudorientale. Era stato segnalato anche dai satelliti spia americani, insomma, questo ammassamento di truppe in diverse migliaia di unità. La cosa che l'elemento di novità è che suscita ancora più preoccupazione, nuova preoccupazione qui, è che si è visto che su questi mezzi militari al di là del confine sono comparsi i simboli il simbolo russo dei caschi blu, un tondo azzurro con 2 lettere gialle dentro emesse, a indicare come dire, il fatto che si possa trattare, che siano potenzialmente truppe di interposizione di pace unilateralmente decise dalla Russia, che potrebbero facilmente entrare in territorio ucraino. Anzi, aggiungo, inizialmente qualche giorno fa, quando si è cominciato a parlare di questi aiuti umanitari, questo intervento umanitario della Russia, si è subito pensato con terrore a quelle truppe lì. Si parla di, mi sembra, qualcosa come 40.000 unità. E quindi, insomma, un impiego massiccio di truppe che sicuramente agita sospetti e getta ombre. Lo ripeto, la crisi sembra assolutamente lontana da qualsiasi risoluzione. Nel frattempo però l'Ucraina ha annunciato un suo convoglio di aiuti umanitari. Insomma, vedremo nei prossimi giorni come andrà a finire questa vicenda. Lo faremo sempre con te, Daniele Elia. Intanto grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi, ciao. (349) 238 6666 per i vostri messaggi, Twitter Giampaz oppure Nessun Luogo 24, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, dove ad esempio un ascoltatore mi accusa di romanticizzare i migranti. Non capisco bene che cosa vuol dire, però se si spiega meglio volentieri rispondo. Poi 800 24 00 24 per l'ultima parte della trasmissione, eventualmente vi sarà spazio anche per voi. Adesso facciamo una piccola pausa, l'informazione sul traffico, poi di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. E alla faccia di chi dice che ad agosto non succede nulla, bisogna avere centinaia di pagine di esteri per raccontare quello che accade. E questo agosto succede addirittura che una guerra in realtà mai finita si riacutizzi in un posto che, insomma, non tutti i giornalisti ci vanno, non è esattamente al centro delle attenzioni dei colleghi, soprattutto, lo ripeto, in un momento in cui Gaza, Ucraina e Iraq accentrano l'attenzione dei media. Invece, negli ultimi giorni vi sono stati circa 20 morti per scontri sulla linea del cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaigian. Andiamo in Nagorno-Karabakh. E lo facciamo con Simone Zoppellaro, anche lui corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, appunto in Armenia. Simone, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, una crisi che negli ultimi anni non è stata più raccontata, un cessate il fuoco in realtà mai rispettato, ufficialmente c'è ancora guerra tra Armenia e Azerbaigian. Raccontaci meglio dove siamo e che cosa sta accadendo. Sì, è un conflitto di cui si parla poco, ma è un conflitto molto importante anche per noi europei, perché avviene alle porte dell'Europa e avviene fra due paesi, l'Armenia e l'Azerbaigian, che sono parte del Consiglio d'Europa. Addirittura l'Azerbaigian ora ne ha la presidenza. Ebbene, cosa avviene? Avviene che da 20 anni c'è un cessate il fuoco fra l'Armenia e l'Azerbaigian, un cessate il fuoco che segue una guerra che ha portato una parte dell'Azerbaigian, appunto Nagorno-Karabakh, a un'indipendenza, a una repubblica de facto che però non viene riconosciuta a nessuno. Si è prodotto un, come dicevo, nel maggio del 1994, un accordo di cessate il fuoco, però senza un accordo di pace. Questa guerra è proseguita poi fino ad oggi, è proseguita con scontri continui praticamente, per cui ogni mese a questo confine, soprattutto a causa di colpi di cecchini, muoiono moltissimi soldati, sia azerbaigiani che armeni, spesso molto giovani poi perché sono soldati di leva. Negli ultimi giorni, purtroppo fra la fine di luglio e il 10 di agosto, è avvenuta un'escalation, e questa escalation è stata la peggiore escalation che sia avvenuta negli ultimi 20 anni. Sono morti, come dicevi tu, fra le 20 e le 30 persone, e si è temuto che si tornasse ad una guerra aperta. Ciò per fortuna non è avvenuto, ciò nonostante la questione rimane risolta e purtroppo temo torneremo a parlare del Nagorno-Karabakh molto presto. Ecco Simone, quali sono le ragioni di questo conflitto mai terminato e che forse adesso con un lessico un po' edulcorato, un lessico un po' asettico, definiremo un conflitto a bassa intensità? Quali le ragioni? Le ragioni partono un pochino da lontano, negli anni 20, quando Stalin decise di dare questo territorio, che è Nagorno-Karabakh, un territorio a larghissima maggioranza armena, decise di darlo all'allora Repubblica Socialista dell'Azerbaigian. Perché lo fece? Perché sperava di fare dell'Azerbaigian, che è uno stato musulmano, un avamposto per la rivoluzione in Turchia e nei paesi musulmani. In seguito a questa annessione, la questione è rimasta poi sopita, insomma, nel silenzio sovietico per 60 anni, fino alla perestroica. Negli anni di Gorbaciov la questione è tornata a esplodere, all'inizio con delle manifestazioni che chiedevano un'annessione appunto di questo territorio ad Armenia, sia nel Nagorno-Karabakh sia nell'Armenia. Questo ha prodotto una reazione molto dura nell'Azerbaigian e poi una guerra che fra l'88 e il 94 ha fatto circa 30.000 morti e 1 milione di profughi. Questa guerra si è conclusa con una vittoria dell'Armenia, come dicevamo, e con una proclamazione di una repubblica de facto, ma con una fine che non è una fine, perché assolutamente non esiste un accordo di pace e nessuno riconosce questa repubblica, che pure esiste, che è quella del Nagorno-Karabakh. Certo. Fra l'altro tu scrivevi proprio su Osservatorio Balcani e Caucaso di questo caso, che nel culmine, no, nel momento più caldo di questa escalation, a un certo punto c'è finito in mezzo probabilmente un trentenne che non era assolutamente né una spia né nulla. Raccontaci meglio questo strano caso di Karen Petrosyan. Sì, fra le varie cose che sono accadute negli ultimissimi giorni c'è questo caso di cronaca con un esito molto tragico, che è appunto il caso di Karen Petrosyan. Karen Petrosyan viveva in un villaggio armeno vicino al confine con l'Azerbaigian e il 7 di agosto ha sconfinato ed è stato trovato da alcuni abitanti di un villaggio azerbaigian che chiedeva del tempo, una sostanza. Questo personaggio, dicono, hanno dichiarato a Radio Free Europe questi abitanti di questo villaggio azerbaigiano, era disarmato, era confuso, sai, probabilmente era ubriaco, ma poi cosa è successo? L'hanno denunciato ovviamente alla polizia, è stato arrestato e il giorno dopo è stato dichiarato morto ufficialmente, secondo gli azerbaigiani, per un arresto cardiaco. Ciò nonostante, insomma, molto probabilmente è anche lui una vittima del tutto inconsapevole di questo conflitto. Gli azerbaigiani sostengono che fosse un sabotatore, uno spia, solo che gli stessi abitanti del loro paese sostengono che non lo fosse. molto probabilmente appunto questo caso di cronaca ha avuto un esito assai tragico per circostanze appunto geopolitiche. Poi. È chiaro, è chiaro. Insomma, situazione piuttosto confusa, lontana dai riflettori dei media principali, però sulla quale abbiamo voluto dedicare almeno una breve pagina di Nessun Luogo Lontano. Grazie mille a Simone Zoppellaro, corrispondente dall'Armenia per Osservatorio Balcani e Caucaso. Buona giornata e buon lavoro, Simone. Grazie a voi, buona giornata. :52, siamo quasi in chiusura, abbiamo alcuni minuti e allora ho tempo per ricordarvi un'altra storia, l'ha pubblicata Jeune Afrique sulla versione online a proposito di conflitti lunghissimi e mai conclusi. Un ONG che è Invisible Children, che forse i più ricorderanno, perché vi ricordate quel video su Joseph Kony, il leader dell'LRA, il Lord Resistance Army, quello famoso per il reclutamento dei bambini soldato, quello sulla lista della Corte Penale Internazionale, quello che nessuno riusciva a prendere, quello che persino Obama si è mobilitato, ha mandato agenti in Uganda, forze speciali nella foresta, insomma quest'uomo, questo criminale internazionale è ancora uccel di bosco. Secondo questa ONG si troverebbe in Repubblica Centrafricana, che in realtà è una delle zone che lui da sempre frequenta. Quello che preoccupa, secondo questa ONG e secondo alcune fonti centrafricane, sarebbe il fatto che ormai con pochissimi uomini riesce comunque a sopravvivere. E ricordiamo che lui sono decenni che destabilizza l'intera regione, riesce a sopravvivere posizionando i suoi uomini in luoghi strategici con piccoli plotoni da 5 a 10 uomini, rendendosi praticamente invisibile e continuando anche lì questa guerra incredibile in cui lui è uccel di bosco. Era così per chiudere con una pagina africana questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma ancora al 349-238-6666 vi sono un po' di sollecitazioni. C'è chi dice dell'aereo battuto non si sente più niente, ci torneremo perché stiamo preparando una puntata speciale tutta dedicata all'Ucraina. Direi che la settimana prossima sentirete fatti, commenti, opinioni sempre ben distinti, perché buona regola è separare fatti da opinioni. Poi c'è chi mi dice ottima trasmissione, va bene, grazie, l'aiutiamoli a casa loro. C'è chi mi dice è una litania, allora sono litania e gli italiani non vogliono certi lavori e tanto se ne vanno, ma dove vanno? Sì, con litania intendevo dire che molto spesso viene detto aiutiamoli a casa loro, ma che è una frase che molto spesso ha i contorni dell'utopia, perché potrei citare decine, centinaia di casi in cui l'aiuto del mondo occidentale, del mondo più ricco, chiamatelo come volete, non è esattamente un aiuto allo sviluppo nei paesi di provenienza di quelle persone. E invece l'800 24 00 24, Lorenzo da Padova, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, innanzitutto un po' di solidarietà a lei per i messaggi un po' cretinotti che le arrivano. Vabbè, pazienza. La ringrazio della solidarietà. Sappiamo da dove arrivano. Però, io non sono un cerchio buddista, però voglio dire questo. Vogliamo chiedere a tutti gli italiani cosa pensano dell'immigrazione? È evidente che probabilmente forse la risposta la sapremo, però cerchiamo di percorrere dei corridoi sani, nel senso che sennò qua diventano tutti razzisti. Allora chi è al potere deve cercare anche di andare incontro alle aspettative della gente. C'è un sacco di gente che non li vogliono gli immigrati. Cosa dobbiamo fare? Cioè lei dice sottoporre quasi a referendum alla volontà popolare, apriamo o chiudiamo le frontiere. Certo, perché no? Perché bisogna avere anche il coraggio di fare certe cose. D'altronde siamo nella democrazia, il massimo della democrazia è il referendum, dico sì. Bene? Sì, sì, no. Gli svizzeri. Su questo io non c'è dubbio. Io toglierei anche il quorum, figuriamoci. Però Lorenzo, allora accolga la mia provocazione, che sì. In realtà non è una provocazione, perché esiste un diritto internazionale, ad esempio il diritto d'asilo. E allora cosa facciamo con i 90.000 eritrei, somali, siriani che sono lì davanti alle nostre coste e che il diritto internazionale ci impone di aiutare? Bene, io con quelli sarei d'accordo. Ma il problema sono gli altri milioni di immigrati che sono qui stabili, i rumeni, gli albanesi, i bulgari, i russi, cosa facciamo di questi? Cioè lei insomma sarebbe per sottoporre a referendum una chiusura completa dell'Italia. Completa. Insomma, sentiamo cosa dice la gente. Ma lei probabilmente dirà: ma noi sappiamo cosa dice la gente. Beh, alcuni sms ci restituiscono insomma un tenore. Ma allora è ancora peggio, capisci? Perché se noi sappiamo quel che dice la gente, perché se lei entra in un bar, se sono 10 persone, troverà una che è d'accordo con l'immigrazione, con qua aiutiamoli, qua tutti gli altri. Casa, in Veneto poi figuriamoci, vero? grazie Lorenzo da Padova per il suo intervento, una buona giornata. Beh, ripeto, chi ci ha seguito però ad esempio nella puntata di ieri ha sentito l'intervento del professore di economia che spiegava molto bene quanto bisogno ci sia dell'immigrazione, che si spiegava come molti paesi, vedi anche la Spagna, soffrono di bilanci in negativo perché la gente si muove, va e viene, però per carità è una proposta e perché no? 349-238-6666, manca pochissimo, c'è chi plaude l'intervento dell'ascoltatore precedente, c'è chi dice da Cuneo ci occupiamo attivamente di un gruppo di migranti a Saluzzo, hanno bisogno di molte cose, se riescono a fare i lavoratori stagionali mancano cibo e acqua, va bene, questo da Cuneo. Invece però c'è qualcosa da dare un'occhiata sulle agenzie. Allora, uno è un flash, il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, in qualità di presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, d'accordo col commissario europeo Ciolos, ha dato la disponibilità a organizzare un consiglio AgriFish straordinario per il 5 settembre sulle misure da attivare a seguito dell'embargo russo. Anche di questo ci occuperemo nello speciale di Nessun Luogo è Lontano. E poi un'altra triste notizia che arriva da Al Cairo. Vi ricordate che vi abbiamo dato conto di quel rapporto Human Rights Watch sulla strage, la mattanza di Rabaa al Cairo di un anno fa? Ebbene, è di almeno 4 morti il bilancio degli scontri nell'anniversario di questa mattanza. Un dimostrante è stato ucciso a Giza nel corso di scontri con le forze dell'ordine. Altri due, leggo le agenzie con voi, riferiscono fonti mediche, sono stati uccisi a Matareya, che è un quartiere periferico del Cairo, un quarto a Dar el Salam. E va bene, siamo in chiusura, si chiude qua questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Grazie a Mire Lucchetti, Nadia Zammitti, a Pietro Corleone in regia ovviamente. Un grazie a voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è domani per una puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano e poi ci si risente come al solito lunedì alle 16. Buona giornata.